Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini incrociati siamo in una situazione difficile, d'emergenze. Si dice che è in queste occasioni che si riconosce di che pasta sono fatti gli uomini. È nelle situazioni estreme che esce fuori la capacità di prendere decisioni, di assumersi responsabilità, di lottare per il bene comune invece che per il solo tornaconto personale. Tutte cose molto vere e giuste. Quello che però è interessante è che quando si presentano prove simili, può essere sorprendente scoprire che queste capacità, questo saper lottare, può venire da persone insospettabili. Sarebbe troppo facile attribuire ai migliori gli atti eroici. Per fortuna esistono in ognuno di noi sentimenti che si manifestano quando sono in causa i diritti di tutti, specie quando si tratta di difendere beni preziosi, fondamentali, vitali. Primo fra tutti, l'acqua. La storia di oggi nasce, o in questo caso sgorga, da una sorgente avvelenata. Tutto inizia con una sostanza lasciata irresponsabilmente filtrare nell'acqua, senza nessuna preoccupazione nei confronti di coloro che la utilizzano. La sostanza si chiama cromo 6 o cromo esavalente. Il cromo esavalente è un metallo che viene utilizzato nell'industria per via delle sue proprietà antiruggine. Tant'è vero che metalli di qualità inferiore, tipo il ferro o altri metalli, vengono trattati al fine di rendere la superficie lucente e inattaccabile dagli agenti atmosferici. Purtroppo, e questo vale per il cromo esavalente, per altre sostanze che vengono utilizzate nell'industria come l'amianto, il nickel, è anche un cancerogeno. A parlare è il dottor Topino, medico del lavoro italiano, specialista di sostanze pericolose, e conferma l'importanza della battaglia condotta dal primo protagonista di Destini incrociati di oggi. Una battaglia paragonabile a quella di Davide e Golia per la disparità dei mezzi in campo. Infatti il nostro Davide è uno di quei personaggi insospettabili di cui si parlava all'inizio. Il Davide in questione è una ex reginetta di bellezza. Una bionda esplosiva, alta, con tutte le sue curve al posto giusto, vistosa. Una donna che aveva puntato tutto solo su lui. Gli anni 80 sono gli anni dell'immagine, del look, appunto. Mai come in questo decennio il bisogno di apparire diventa un'ossessione. Segnati da un decennio di relativo benessere, gli anni 80 sono all'insegna del consumismo, di uno spirito superficiale che vuole annegare gli anni 70 appena trascorsi nel riflusso e nel disimpegno. Nasce la Milano da bere, i paninari ingabbiati nei loro piumini, che si scontrano in piazza San Babila contro punk e skinhead per amore di un giubbotto. In America, invece, esplode il fenomeno Madonna. Madonna è un'icona degli anni Ottanta, con una precisa strategia dell'immagine. Capelli e trucco esagerati, pizzi uniti a borchie, croci, disinvolta, sfacciata, sensuale. Tutte le ragazze anni Ottanta vogliono essere come lei, anche la nostra protagonista. E quindi giù, cascate di riccioli, rossetto, tacchi vertiginosi. In quegli anni, per lei, la bellezza e il fisico sono al primo posto. A volte sembra che la bellezza serva non solo per i concorsi. È quello che deve aver pensato quella giovane ragazza sul palco del concorso di bellezza per Miss Pacific Coast. Stanno per chiamare la vincitrice. Miss Pacific Coast 1981 è proprio lei, Erin Brockovich. Erin Brockovich. Erin Brockovich è una ragazza normale, il cui sogno di diventare reginetta di bellezza si avvera. Dovranno passare 10 anni prima che le cose cambino e la bella bionda si trasformi in Davide con la sua fionda. La carriera di Erin non decolla. Dopo la vittoria del titolo, visite nelle palestre, inaugurazioni dei supermercati, fotografie con i fan, ma nessun vero contratto, nessuna occasione che le valga un lavoro. Eh sì, essere una reginetta di bellezza non è sempre rose e fiori, specie quando il tempo passa, arrivano e poi spariscono anche 2 mariti, restano 3 figli e molti conti da pagare. Ma Erin è una donna eccezionale, dotata di una forza di volontà inesauribile. Questa reginetta di bellezza ha saputo prestare ascolto agli altri, alle loro necessità a scapito di tutto. Forse perché lei stessa ha sofferto per la mancanza di sostegno e di fiducia negli anni importanti della sua formazione. Erin non ha mai abbandonato i suoi sogni. Sicuramente avevo speranze e sogni. Volevo diventare un dottore. E invece tutti mi scoraggiavano perché ero dislessica. La gente intorno a me diceva che non ero abbastanza intelligente per la scuola. Ma crescendo e maturando, ho iniziato a percepirmi in modo diverso. E mentre tutta la gente pensava che fossi stupida, che non potevo riuscire, io ho capito che erano loro ad essere limitati e che io potevo fare scelte diverse, che le mie scelte non dovevano essere necessariamente come le loro. Erin lascia presto il Midwest per andare in California in cerca di un destino migliore per sé e per i suoi figli. Trovare un lavoro serio quando sei bionda e procace non è facilissimo, anche se qui siamo in America, la patria delle bionde. Se oltre che bionda hai anche un'apparenza un po' volgarotta e dici molte parolacce, allora è una tragedia. Nessun impiego e una vita tutta in salita. È a questo punto che il destino irrompe, sotto forma di un incidente. In un periodo particolarmente difficile della sua vita, all'uscita dall'ennesimo colloquio di lavoro senza risultati, Erin viene tamponata violentemente da un'auto che non rispetta il verde. L'avvocato che segue la sua causa per rientrare delle spese mediche le assicura che vinceranno facilmente. Ma una volta in tribunale le cose vanno molto diversamente. Erin perde la causa. Erin è furiosa e la sua furia si scaglia contro l'avvocato che l'ha difesa. Possibile che capitino tutte a lei? L'uomo sembrava di grande esperienza, eppure perde una causa che pareva semplice. Erin sente che l'uomo, con il suo errore di valutazione, ha delle responsabilità nei suoi confronti, le deve qualcosa. E tutti questi fattori la portano a compiere un passo perlomeno bizzarro. Un giorno si presenta allo studio dell'avvocato e lo supplica di darle un lavoro. Erin è all'ultima spiaggia. Ero una madre disperata. Ero appena in grado di nutrire i miei figli. Per loro rubavo le medicine. Tutte cose molto dolorose. Dovevo sopravvivere. Devo ancora sopravvivere. L'avvocato cede. Forse perché, come avverte Erin, si sente responsabile. O forse perché in qualche modo si sente attratto dall'incredibile energia della donna che si trova di fronte. L'avvocato cede. Forse perché, come avverte Erin, si sente responsabile. O forse perché in qualche modo si sente attratto dall'incredibile energia della donna che si trova di fronte. Non sa che questa mossa sarà il punto di svolta non solo nella vita di Erin, ma anche nella sua. Erin Brockovich è assunta ufficialmente presso lo studio legale dell'avvocato Ed Masri. Una cosa è certa, Erin è una gran lavoratrice. Tutti i giorni, dopo aver consegnato i figli alla vicina di casa, si presenta puntuale al lavoro e si dà un sacco da fare. Mette in ordine l'archivio, si occupa di registrare le cause, ma cerca anche di comprendere come funzionano i meccanismi che governano la legge. L'avvocato Masri, a poco, inizia ad affidarle delle pratiche da curare dall'inizio alla fine. Sono piccole cose che però la fanno sentire apprezzata. E questo, per una donna che per molto tempo è stata considerata solo un'oca bionda, è la vera svolta della sua vita. Ed Masri non è un uomo qualunque, ha una sua sensibilità. Per certi versi, ha una vita che ricalca, sia pure con le debite differenze, quella di Erin. Figlio di immigrati libanesi, Masri non ha mai preso il diploma a causa del servizio di leva prestato durante la guerra in Corea. Ma riesce lo stesso a ottenere la laurea in legge grazie ai voti alti e al suo impegno totale nel lavoro. Insomma, è il tipico self-made man. Non uno di quegli avvocati fichetti con una grande famiglia alle spalle e le migliori università americane nel curriculum. La sua è un'esperienza fatta sul campo di battaglia, fra studi di provincia e piccole cause locali, di cui molte pro bono, per beneficenza. Ma è anche un'esperienza solida, senza fronzoli, efficace. Quando incontra Erin, il suo fiuto gli fa capire che quella che ha di fronte è una donna di razza, una donna con personalità, capace di arrivare al cuore del problema e a non mollare. È intelligente, è gentile, leale, coraggiosa, ha tutti gli aggettivi. Erin è, con l'eccezione di mia moglie, la donna perfetta. Masri decide di affidarle qualcosa di più sostanzioso. La prima pratica che affida Erin riguarda un'offerta immobiliare fatta da una grande società per l'energia, la Pacific Gas and Electric Company, che intende acquistare la proprietà della famiglia Jensen a Hinckley, un paesino nel sud della California, vicino al quale si trovano degli stabilimenti della Pacific. I Jensen sono gente semplice, padre, madre e due figlie, con una casa normalissima. Come mai la Pacific tiene tanto all'acquisto? Erin inizia a riguardare tutte le scartoffie che fanno parte della pratica con una particolarità. Forse a causa della dislessia, Erin legge piano, pianissimo. Per passare in rassegna tutti i documenti per la transazione immobiliare della famiglia Jensen ci mette molto, ma alla fine conosce in modo approfondito tutti i dettagli e finisce per riscontrare delle anomalie, certi punti che non le tornano. L'offerta della Pacific è vantaggiosa, persino troppo. Non è strano, si chiede Erin, che una società che fornisce gas ed elettricità voglia dare così tanti soldi per una proprietà apparentemente senza valore. E poi si chiede Erin come mai nell'incartamento sono presenti anche molte fatture di visite mediche. Chiede al suo capo Ed se può andare in fondo alla cosa e l'avvocato Masri le dà il permesso. Come abbiamo visto, Erin è una donna di grandi risorse, ma forse la cosa che la contraddistingue di più è la sua inarrestabile capacità di andare a fondo alle cose, di non restare alla finestra a guardare. Lei è una donna d'azione, di movimento, di reattività. L'affare della compravendita di Hinckley la incuriosisce e sa che in questi casi non c'è niente di meglio che prendere la sua vecchia macchina e andare a farsi un giro verso la casa dei Jensen. L'autoradio suona il singolo numero uno in classifica di una donna che, come Erin, ha sempre fatto di testa sua e ha scandalizzato i ben pensanti. Janet Jackson. Hinckley, Erin incontra Donna Jensen, una signora con cui lega subito. Parlando con la donna, Erin scopre che sia lei che il marito hanno gravi problemi fisici. Ma la cosa strana è che le fatture mediche sono tutte state pagate dalla società Pacific. Quando Erin chiede come mai la Pacific si sia sentita in dovere di pagare il check-up a tutta la famiglia, Donna Jensen risponde che è stato per il cromo, per controllare che tutto andasse bene. Il cromo? Cosa vuol dire? Donna Jensen spiega che la Pacific ha informato tutti gli abitanti di Hinckley che nello stabilimento vicino viene usato il cromo, ma che hanno spiegato è una sostanza buona, spesso contenuta anche nei complessi multivitaminici. Cromo, check-up, compravendite. Troppi elementi, troppe informazioni, troppe incongruenze. L'istinto di Erin le dice di andare a fondo nella faccenda, vuole saperne di più, e viene a scoprire che sì, c'è un cromo buono, il numero 3, ma anche uno cattivo, il numero 6, o esavalente. Gli effetti di questa sostanza ce li spiega il medico del lavoro, dottor Topino. Non bisogna berla l'acqua col cromo esavalente perché il cromo esavalente ha delle proprietà mutagene, nel senso che può modificare il DNA. Quindi c'è il rischio di contrarre dei tumori, ma c'è anche il rischio di avere dei figli malformati o altre patologie comunque di tipo malformativo e tumorale. Cosa è successo a Hinckley? Quale tipo di cromo è stato realmente utilizzato ed è penetrato nelle falde acquifere? Il prossimo passo che Erin compie è di andare all'archivio idrico della contea a vedere tutte le registrazioni fatte a proposito dell'acqua dalla Pacific Gas and Electric. E quando trova il documento che prova l'utilizzo del cromo esavalente e non del cromo 3 a solo un miglio di distanza dal paese di Hinckley, i suoi sospetti diventano certezze. In possesso di tutte queste informazioni, Erin si presenta dal suo capo convinta di avere qualcosa di esplosivo in mano. Ma Masri all'inizio non solo non apprezza il lavoro, ma addirittura la licenzia per le troppe assenze dall'ufficio. E poi diciamocelo, come si può prendere sul serio una come Erin, una che va in giro in zoccoletti con i tacchi alti e t-shirt con scollature abissali? Una così non può che essere un irresponsabile, una facile, una che non sa impegnarsi. Ci risiamo. Di nuovo Erin si trova ad affrontare il rifiuto, la pressione di gente che la vuole diversa, omologata. Tutte le volte che mi chiudevano una porta in faccia, io sentivo che non dovevo rinchiudermi in una gabbia di autolimitazioni, dove tutti mi costringevano a rimanere. Così ho dovuto imparare che anche se ero diversa, questo non voleva significare che fossi inferiore. E ho dovuto cambiare la percezione che avevo di me stessa. E quindi, in un certo senso, sono sempre stata costretta a sopravvivere, perché tutta la mia vita è stata dover superare ostacoli. Ma alla fine ho imparato a canalizzare queste capacità nell'aiutare le persone. I got it. what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I'm gonna be my own best friend, be myself, and I, that's all I got in the end. That's what I found out, and it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I'm gonna be my own best friend. Anche questa volta Erin riesce a superare l'ostacolo. Anche se in ritardo, Ed Masry riconosce il lavoro iniziato dalla Brockovich e la riprende in ufficio. Riguardando il lavoro di Erin, questa volta è lo stesso avvocato a sentire odore di marcio e inizia ad affiancare la Brockovich nella gestione della pratica. Forti delle prove ottenute all'ufficio idrico, Ed e Erin si recano dalla famiglia Jensen e la convincono ad aprire una causa contro la società. In breve tempo, la notizia che c'è qualcosa che non funziona nelle falde idriche del paese di Hinckley fa il giro di tutti gli abitanti. A poco si scoprono decine di casi, tutti riconducibili agli effetti del cromo esavalente. Troppa gente con il cancro, donne affette da infertilità o aborti ricorrenti, bambini con ogni tipo di patologia. Il paese di Hinckley sembra un lebbrosario. Parlavo con alcuni di loro al telefono fino a 1 di notte. E alle 7 di mattina ero di nuovo al telefono. Ascoltavo le loro pene e le loro sofferenze. In un certo senso li aiutavo. Non motivandoli, non mi viene la parola adesso, ma ero lì, per loro. Ho creduto in loro. Ho creduto in ciò che ho trovato. Ho creduto in ciò che ho visto. E credo che non puoi semplicemente voltare le spalle. E tutti loro, piano piano, iniziarono ad avvicinarsi e a unirsi. C'è una qualità che Erin ha sempre posseduto. Sa come parlare alla gente. Dopo aver convinto Ed dell'importanza dell'affare Hinckley, Erin si mette al lavoro per informare gli abitanti del paese. Alla fine sono molte le famiglie che decidono di unirsi alle richieste dei Jensen alla Pacific. Questo vuol dire che da una semplice causa privata si può arrivare a una class action. Ma cos'è esattamente una class action? La class action, o azione collettiva, significa, secondo la definizione ufficiale, il modo migliore con cui i cittadini possono essere tutelati e risarciti dai torti delle aziende o delle multinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole avrà poi effetto e potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nella identica situazione dell'attore. Dal gennaio del 2010, questo tipo di azione legale è diventato effettivo anche in Italia. Una grande opportunità per i cittadini italiani per opporsi ai soprusi delle grandi aziende. In America la class action è una pratica diffusa da tempo ed è quello a cui un'appassionata Erin Brockovich vuole arrivare. Ma una causa comune che coinvolga una moltitudine di querelanti non è esattamente quello a cui pensava l'avvocato Masry quando aveva accettato di seguire la causa Jensen. Ed è questo il momento in cui le personalità di Erin e di Ed Masry si mettono in contrasto. Da una parte c'è una donna tutto istinto e passionalità, dotata di un gran senso di giustizia, ma di scarsissime conoscenze tecniche e senza alcuna istruzione giuridica. Dall'altra, un esperto avvocato avvezzo a tutte le sottigliezze delle azioni legali è ben conscio di essere a capo di un piccolo e insignificante studio di provincia che potrebbe uscire dalla competizione con una società del calibro della Pacific completamente distrutto. Il conflitto fra i due è molto ben sottolineato nel film di Steven Soderbergh, Erin Brockovich, La forza della verità. Una causa come questa, Erin, potrebbe richiedere un'eternità. Sono una società mastodontica. Potrebbero seppellirci di cartacce per i prossimi 15 anni e io solo un piccolo studio privato. Che ho scoperto che hanno avvelenato la gente e hanno mentito. Noi possiamo beccarli. Con un po' di sforzo io sono convinta che possiamo inchiodargli il culo e farli a pezzi. Ah, davvero? È la tua esperienza legale che te lo fa credere? Non ti capita mai un'intuizione? Intuisci anche da dove vengono i soldi. Erin ha proprio un caratteraccio. Il povero Ed cerca di addomesticarla, di farle capire che la legge è molto diversa dalla giustizia. Concetti difficili da comprendere per una donna che segue le sue intuizioni e che della legge si fida poco. Ma qualcosa sta cambiando in lei, a poco. All'intuizione si sta aggiungendo una precisa coscienza sociale, la necessità di approfondire la materia per meglio servire la gente di Hinckley, che nel tempo sta imparando a conoscere e ad apprezzare. E alla lunga, anche grazie all'aiuto di Ed, Erin trova la forza di lottare per le sue convinzioni. A destini incrociati, Erin Brockovich, ex reginetta di bellezza, ha fatto irruzione nella vita di un anziano avvocato, sconvolgendone la tranquilla vita professionale. Erin sta preparando una class action di dimensioni colossali, supportata unicamente da un carattere forte e determinato. Per Erin, la giustizia non è un concetto astratto e cavilloso, ma un valore che ha imparato a conquistarsi lottando. Lei è come se sentisse in modo esatto dov'è la verità, la linea che divide il bene dal male. E sa che nel caso dei cittadini del paese di Hinckley, il bene si trova in quelle case di gente ignara, di bambini malati e sofferenti. Il male, invece, scorre nelle falde acquifere del sottosuolo della cittadina. La gente di Hinckley riconosce le doti di Erin e risponde ai suoi inviti. E a poco, anche nello studio Masary, la figura di Erin acquista credito. La donna non è più solo vista come una specie di marziana capitata da chissà dove. Vedere il signor Masary credere in me, avere di nuovo stima di me stessa, di essere utile ancora, e vedere lo studio legale coinvolto, i soldi messi in anticipo e gli esperti fatti venire, vedere tutto ciò, mi vengono ancora i brividi. Ed sa che senza la carica umana di Erin, l'empatia e la capacità di entrare in contatto con la gente comune, nulla di quello che stanno facendo sarebbe possibile. E adesso le osservazioni e i suggerimenti della Brockovich vengono non solo ascoltati, ma richiesti. Ed sente che Erin apporta linfa nuova al suo lavoro. E qualcosa inizia a smuoversi dentro di lui. La prospettiva di trascinare la professione ancora per qualche anno, dibattendosi fra ingiunzioni di sfratto e piccole questioni legali per arrivare al più presto a una comoda pensione, sembra non avere più senso per lui. Si sente di nuovo sulla breccia, in sella al cavallo vincente. Erin invece scopre che essere apprezzata è una nuova appagante sensazione che la ripaga anche dell'incomprensione che incontra a casa. I figli si sentono abbandonati da una madre che trascorre la gran parte della giornata fuori casa e l'attuale compagno le chiede di scegliere fra lui e il suo lavoro. Una scelta che per la prima volta Erin non si sente di fare. Questo lavoro per me, per la prima volta in tutta la mia vita, la gente comincia a rispettarmi. Se vado a Hinckley, entro in una stanza e tutti si zittiscono per sentire se ho qualcosa da dire. Non mi era mai capitato finora, mai. Ti prego non chiedermi di rinunciarci. È quello a cui stanno rinunciando i tuoi figli? Sto facendo di più ora per i miei figli di quando abitavo con i miei genitori. Un giorno sono sicura che lo capirà. È un momento molto difficile per Erin, come lo sono sempre i periodi di cambiamento. E qualcosa sta effettivamente accadendo nella vita di questa ex reginetta di bellezza che si ritrova improvvisamente trasformata in una paladina della giustizia dal caso, ma anche dall'incontro con l'altro protagonista della nostra storia, Ed Masary. Erin Brockovich e l'avvocato Ed Masary sono alle prese con l'istituzione di una grande class action, un'azione collettiva contro il colosso Pacific Gas and Electric Company, colpevole di avere inquinato, per incuria, le falde idriche della cittadina di Hinckley con il cromo esavalente, una sostanza altamente cancerogena. Per Erin, che si occupa di contattare e convincere il maggior numero di famiglie possibile, significa un incessante lavoro door-to-door che la tiene lontana dai figli e dalla casa. È arrivato un momento in cui mi sono chiesta: cosa sto facendo? Arrivo sempre a casa tardi, non vedo mai i miei figli, sto investigando in qualcosa di cui non dovrei neanche impicciarmi. Cavolo, basta guardarmi. Vado in giro come una pazza, con la minigonna, non vedo mai i bambini, non ho un soldo. Insomma, cosa sto facendo? Ma c'era qualcosa di molto profondo dentro di me che mi guidava, anche se non me ne accorgevo al momento. Ero spinta, ero guidata, ero incuriosita e mi sentivo responsabile per ciò che quella gente stava passando. Ma mi succede spesso di agire in modo molto istintivo. Seguo quello che mi dice la mia pancia. Erin lavora bene sul campo, passa intere giornate a raccogliere testimonianze, a cercare prove, reperti. Ogni giorno sale in macchina e parte alla volta di nuove ricerche. Ha l'istinto dell'investigatrice d'assalto, mentre l'avvocato Masary resta in ufficio a tessere trame legali, a considerare tutti i passi migliori da intraprendere per ottenere il massimo da questa causa. È questo che funziona molto bene fra Erin e il suo capo, la divisione dei compiti e delle competenze, ma con una grande e sostanziale differenza. Nei mesi trascorsi lavorando insieme, i due si sono non solo incontrati sul lavoro, ma sono riusciti ad accettarsi e apprezzarsi reciprocamente. È una solida collaborazione che inizia i suoi primi passi. Erin riesce con il suo entusiasmo, la sua capacità empatica e il suo profondo bisogno di cercare la verità a infondere nuovo vigore etico alla cinica professione dell'avvocato. Ed Mesri si sente finalmente coinvolto in una causa di spessore che sfida le sue capacità professionali molto più delle solite scaramucce che arrivano sul tavolo di uno studio di provincia. A sua volta Erin impara a dosare le sue intemperanze, a dare maggiore spessore e serietà alle sue famose intuizioni. E soprattutto trova dentro di sé una nuova sicurezza, alimentata dal credito che Mesri dà alle sue parole. Ricordati che se non fosse per te io sarei a Hawaii a godermi la pensione invece di stare qui a farmi il c***o. Quindi io sono la prova che sei brava a convincere la gente. Ed è proprio così. Erin riesce a riunire ben 634 querelanti. Non solo gli attuali abitanti di Hinckley, ma anche quelli trasferiti da tempo, visto che riesce a scoprire che la Pacific usava il cromo esavalente sin dagli anni 60. E questo nonostante che in tutti quegli anni inviasse persino Deplian, che davano informazioni false sul cromo utilizzato nei loro stabilimenti. Se qualcuno avesse avuto il coraggio di venire a casa mia e sapendo che l'acqua era avvelenata avesse detto che andava tutto bene, che non c'era pericolo per i miei bambini, io sarei andata in giro per anni pensando di essere pazza. Perché i miei bambini sono malati? Perché Dio mi ha fatto questo? E sapendo che ne erano sempre stati a conoscenza e sapendo di essere stata ingannata, come si può lasciare perdere? Non c'è verso, non puoi perdonarli. E così dissi a quella gente: non posso costringervi a far parte di questa causa. Quello che posso fare è informarvi. E voi mi piacete. Mi piacete. Siete gente meravigliosa, così come lo sono i vostri figli. Ma io non me ne starei ferma senza fare niente. Non importa se si vinca o se si perda. Comunque vada a finire, io mi alzerei in piedi e mi farei sentire. Siamo noi che votiamo. Noi possiamo scegliere. Sia che vogliate esserne parte o no, non andatevene a mani vuote, accettando che i vostri figli siano malati, che voi lo siate e che tutti pensino che siate pazzi. Ve lo sto dimostrando. Non lo siete. E non importa quale sia il risultato. L'importante è lottare. Ma quando la lotta si fa dura, bisogna essere dei duri. E la Pacific sa come si fa. Dapprima sono minacce occulte, telefonate nel pieno della notte, lettere anonime. Poi, quando le pratiche sono ormai davanti ai tribunali, in campo vengono messi decine di avvocati di grido e senza scrupoli, che sperano di spaventare il piccolo studio di provincia. Mesri ed Erin sono coraggiosi, forti, ma andare avanti da soli sarebbe comunque un suicidio. A questo punto l'avvocato Ed sa che non può farcela da solo e decide di allearsi con un grande studio di Los Angeles. Erin vive l'iniziativa come una resa, ma l'arroganza della Pacific va combattuta ad armi pari. Insieme al grande studio, Erin e Mesri riescono nell'impossibile: vincere la battaglia degli abitanti di Hinckley contro la Pacific Gas and Electric Company. Il risarcimento deciso dai giudici è altissimo, tuttora il più alto mai concesso da una corte americana, 333 milioni di dollari. Credo che per tutti noi la cosa più importante, e sono ancora molto vicina ad alcuni di loro, non fossero necessariamente i soldi vinti. Era il fatto che si fossero uniti e come un'unica identità siano riusciti a cambiare le cose per loro e per i loro figli. La vittoria cambia la vita non solo degli abitanti di Hinckley, ma anche quella dei nostri protagonisti, Erin Brockovich ed Ed Mesri. Anche per l'altissima parcella guadagnata dallo studio, Erin, a ricompensa del lavoro svolto, riceve un assegno di 2 milioni di dollari, una cifra mai neanche immaginata dall'ex reginetta di bellezza. Ma quello che cambia sono soprattutto le prospettive dei due personaggi, il loro futuro. Erin diventa una sorta di passionaria dei diritti umani e continua per un certo periodo a lavorare insieme a Ed. Lo studio di Mesri si occupa ancora per molto tempo di class action, soprattutto legate a casi di inquinamento dell'acqua. Oltre allo studio Mesri, dopo un po', Erin Brockovich inizia a collaborare con altri importanti studi negli Stati Uniti, a Los Angeles, a New York e persino in Australia. Ma soprattutto, Erin si guadagna un riconoscimento impensabile per l'ex Miss Pacific Coast. Le viene conferito un dottorato honoris causa in lettere e altri riconoscimenti di importanti scuole di legge e università americane. Ormai non la ferma più nessuno. Erin è diventata una professionista estremamente pericolosa. Dangerous. I never knew, but I was walking the line. Come go with me, I said I had no time. And A Destini Incrociati oggi raccontiamo la storia di Erin Brockovich e dell'avvocato Ed Meseri. Grazie a quell'uomo di legge, Erin ha trovato la forza di cambiare la sua vita, ritrovando quei valori che erano sempre stati dentro di lei. Solo dopo essermi scontrata con la faccenda di Hinckley, ho capito tutto quello che la mia famiglia mi aveva trasmesso e di cui forse non ero cosciente, ma che evidentemente era ben radicato in me, come il valore della famiglia, della salute e dell'onore e dell'onestà. Mio padre era un ingegnere e mi ha sempre insegnato il valore dell'acqua e che un giorno sarebbe stato un bene prezioso. E il fatto che anch'io fossi una madre ha fatto sì che lottassi per questa piccola comunità e tutto quello che faceva parte del mio essere, quello che avevo imparato e quello che sapevo e le mie speranze, ora stavano tutte insieme davanti a me. Le speranze di una vita migliore sono sempre state importanti per Erin e per Ed. Quest'ultimo si impegna persino in politica, presentandosi e venendo eletto per il consiglio della sua città, mentre Erin fonda una società di consulenza specializzata in problemi ambientali. Ma dei loro successi si accorge anche Hollywood. Steven Soderbergh, che deve la sua notorietà al film indipendente Sex Lies and Videotapes, gira il film Erin Brockovich, la forza della verità, con Julia Roberts nella parte di Erin e l'attore inglese Albert Finney, che offre una delle sue prove più memorabili nella parte di Ed Meseri. La pellicola esce nel 2000 ed è subito un successo clamoroso. In tutto il mondo incassa più di 200 milioni di dollari, conquistando tutte le critiche. Al film partecipa anche Erin in un cameo. Proprio all'inizio del film è la cameriera della tavola calda dove i figli della sua alter ego ordinano degli hamburger. Sulla divisa ha il cartellino del nome con su scritto Julia R., in un gioco di rimandi fra lei e la Roberts. L'anno dopo l'uscita del film è proprio la splendida Julia a vincere l'Oscar come migliore attrice protagonista. And the Oscar goes to Julia Roberts. La Roberts è bellissima in un vestito vintage di Yves Saint Laurent, restato negli annali dei vestiti più belli visti sul palco degli Academy Award. È deliziosa mentre ringrazia il pubblico. Non posso crederci. Questo coso è molto carino. Voglio ringraziare così tanto le persone che hanno contribuito a rendere Erin Brockovich Erin Brockovich. Un attimo, voglio sistemarmi il vestito. La Universal, tutti quelli della Universal. Oddio, non credo di ricordare i nomi di tutti. La Jersey Film e Danny DeVito e tutti quanti. Tutti quelli che ho incontrato in vita mia. E questo film è stato incredibilmente divertente da fare. Da allora è facile per molti scambiare la vera Erin con l'immagine della Roberts, tanto che quando la Brockovich interviene agli innumerevoli seminari a cui viene invitata, si ritrova spesso a dover ricordare quel periodo e a presentarsi così ai partecipanti. Non so, ora sono qui davanti a voi e... accidenti, mi chiedo se devo presentarmi perché, signore e signori, devo mettere subito le cose in chiaro. Io non sono Julia Roberts. Quindi, buongiorno, è un piacere incontrarvi qui. Sono Erin Brockovich, quella vera, non il film. Certo, non posso credere che siano già passati tanti anni dall'uscita del film. Non potrò mai dimenticare la sera dell'anteprima del film, mentre camminavo sul red carpet con i flash dappertutto, cineprese ovunque, tutti che mi chiamavano per nome. Pensai che fosse il momento più surreale della mia vita. E mentre stavo piantata davanti ai fotografi, un reporter mi prese per il braccio e mi chiese: «Come ci si sente ad avere il proprio nome nel titolo di un film?» E io proprio non lo sapevo, così gli risposi: «Me lo chieda fra 10 anni». Con il successo, Erin diventa ricca e famosa, una donna determinata che viene chiamata in ogni parte del paese per seguire cause simili a quella contro la Pacific. E non solo. Negli anni ha condotto programmi in televisione e scritto la sua autobiografia. Fioccano i compensi, ma Erin scoprirà che i soldi non valgono nulla rispetto agli affetti. We can take a cruise around the world and I'll pay the cost, but I feel lost. Feel so lost. Money don't mean a thing. Don't mean a thing. I'd rather have someone that makes me happy. Oh, but yeah. No one gave me her love. Holding each other, watching the sun come up. And I would give up everything just to have a shorty that loves me for me. La notorietà è una cosa importante, ed Erin l'ha perseguita con tenacia e caparbietà. Ma c'è sempre un prezzo da pagare. La figlia più piccola di Erin, Elizabeth, inizia a drogarsi. Mi chiamo Elizabeth Brockovich, ho 17 anni e ho avuto problemi con la droga, cocaina e pasticche. La prima droga che ho provato è stata la marijuana. Avevo 12 anni. Odiavo tutto perché mia madre è Erin Brockovich. Erin impara presto che a volte migliorare se stessi non vuol dire automaticamente essere capaci di migliorare anche quelli che ci sono intorno e che amiamo. E che anche donne del suo calibro possono commettere degli errori. Quando uscì il film, lei non c'era mai. Andava alle anteprime, c'erano interviste, discorsi da tenere, lezioni. E quindi ero come impazzita, perché improvvisamente lei non c'era mai. Andavo male a scuola. Tornavo tardissimo la notte, o non tornavo affatto. Uscivo con altri ragazzi che si drogavano come me. Ma anche in questo caso la Brockovich non si tira indietro e lotta al fianco della figlia. Oggi Elizabeth è riuscita a smettere di drogarsi e a tornare a una vita normale. Anche Erin riesce a trovare un equilibrio fra le sue aspirazioni di donna impegnata in battaglie sociali e i suoi tre figli. E oggi la sua è una vita appagata. Purtroppo le manca Ed, che non è riuscito a vincere la sua ultima guerra. Ed Mesri muore nel 2003 a causa di complicazioni legate al diabete di cui ha sempre sofferto. Prima di morire, ha potuto avere la soddisfazione di ricevere un considerevole numero di riconoscimenti per avere dedicato gli ultimi anni della sua vita ad aiutare gli altri. Oggi Erin nutre ancora grande speranza nel futuro e cerca di infondere questa speranza anche nelle migliaia di ragazzi che incontra ogni anno nei suoi seminari. Spero davvero che troviate la vostra strada, fatta di libertà, e che possiate sempre utilizzare la vostra capacità di scelta. Spero che ogni singolo giorno voi abbiate la capacità di capire qual è la strada che esce dal seminato e di trovare il coraggio di seguire sempre la via meno battuta. E che un giorno vi possiate guardare indietro e vedere che voi stessi vi siete creati un cammino originale. Ed è allora che capirete che grazie al vostro potere di prendere decisioni e di operare delle scelte, ognuno di voi come individuo può fare la differenza. Non solo a casa vostra, nella vostra vita o nel vostro posto di lavoro, ma potete fare la differenza e lasciare una traccia anche nel mondo. I used to ride with a vending machine repairman. He said he's been down this road more than twice. He was high on intellectualism. I've never been there, but the brochure looks nice. Jump in, let's go. Lay back, enjoy the show. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.